Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, questo è il settimanale di cinema di Radio 24, staremo insieme per un'ora per raccontarvi tutte le novità cinematografiche in una puntata che è largamente dedicata al Festival di Cannes, che si chiude proprio fra poche ore, domenica sera, l'assegnazione del Palmarès. Per due settimane, quasi due settimane, si sono avvicendati film, star, registi di primissima qualità sulla carta quest'anno. Fra poco ne parleremo con uno dei nostri collaboratori che si trova sulla Croisette, ovvero Boris Sollazzo, ma avremo modo durante la trasmissione anche di carpire meglio anche il colore della Croisette di questo anno di crisi dalla nostra Barbara Righini. Prima però andiamo come sempre a raccontare con le suggestioni audio il clima dei film che escono in sala in questo weekend. Il nostro audio sommario. Ivan il Terribile, Napoleon Bonaparte, Al Capone. Signori, tremate, sono tornato in vita! Sì, sì, ho sentito, ho capito, bentornato. Io sono stata la prima a credere in lui. E se lui è diventato quello che è diventato, lo deve anche a me. Mussolini, ci hai abbandonato nella miseria più nera! Ho l'opportunità di rivivere la mia vita, ma di farlo come si deve. Tornerò nel mio liceo, Ned. Che non ti venga in mente di coinvolgermi in questa faccenda. Dove sei? E allora, ci sono due film dal Festival di Cannes direttamente nelle nostre sale. Uno è Vincere di Marco Bellocchio, di cui parleremo più tardi, già nei nostri cinema da mercoledì. L'altro è Antichrist, spero che la pronuncia sia quella giusta, di Lars von Trier, uno dei primi film passati a Cannes, critica che in gran parte ha stroncato o comunque parlato in maniera negativa del film di Lars von Trier. Un manipolo, diciamo così, invece di critici, lo ha appoggiato. E noi chiediamo subito al nostro Boris Sollazzo, che salutiamo, lui da che parte sta? Ciao Boris. Ciao Franco, devo dire che io sono dalla parte di chi l'ha stroncato, perché temo che gli altri abbiano avuto un abbaglio del tipo: è troppo brutto per essere realmente brutto, forse siamo noi che non lo capiamo. Quindi invece il film è purtroppo davvero aberrante, credo che sia uno dei punti più bassi che Cannes ha raggiunto, è la dimostrazione di un'arroganza proprio intellettuale di Lars von Trier, che questa volta utilizza i suoi stratagemmi narrativi e visivi per sconvolgere il pubblico e sconvolgere la critica, senza nemmeno cercare più la struttura di un film, cioè dando libero sfogo alle sue ossessioni psicotiche, al suo maschilismo, a delle turbe disturbanti. Ci sono immagini veramente, anche per un horror, inguardabili. Devo dire, insomma, un film difficile proprio anche da recensire, perché sembra che Lars von Trier abbia voluto dire: voglio vedere fin dove posso arrivare. Senti, la tua sensazione è che il lavoro di Lars von Trier sia un po' giunto a una sorta di strada senza uscita, cioè la sensazione è che negli ultimi suoi lavori, pian piano, diciamo dopo Dogville, ecco, se proprio dobbiamo mettere un paletto, pian piano si sia andato un po' più inaridendo sotto il profilo narrativo, insomma, delle storie che voleva raccontare, e abbia lasciato appunto libero sfogo alla parte formale, un po' fine a se stessa. Guarda, sono veramente d'accordo con te, sembra un'analisi perfetta, perché appunto Dogville mi sembra uno dei punti più alti che lui ha raggiunto insieme a Kingdom, la serie televisiva, e lì forse, quando con Dogville ha capito che poteva avere per sé tutti gli attori che voleva, in quel caso Nicole Kidman, che era all'apice della sua carriera, in questo William Dafoe e Charlotte Gainsbourg, che si fanno fare di tutto, nel momento in cui la sua presunzione di credersi il miglior regista del mondo, testuali parole, credo che abbia un po' perso la testa, e come dici tu, anche perso l'ispirazione, per cui adesso rischia se stesso, con il problema che, siccome è un provocatore, deve sempre alzare l'asticella di questa provocazione. Senti Boris, uno straccio di trama sto film ce l'avrà pure, cioè questo Anticristo del titolo cos'è? Allora, Antichrist è, devo immaginare, la donna, visto qual è lo sviluppo del film, però non ha un motivo sensato questo titolo. La trama è tutta nei primi sei minuti: una coppia fa sesso selvaggio in casa sua, tra bagno, contro il muro, sul letto, mentre un bambino, il loro figlio, esce dal suo lettino, si mette a scalare tutta casa, arriva fino al davanzale della finestra e si butta. Il bambino muore e loro entrano in una spirale di senso di colpa. Da lì inizia una follia, loro vanno a finire in una casa, in una foresta, per superare i traumi di lei, e succede quello che succede sempre in un film horror dentro una foresta, insomma, è la catastrofe, l'apocalisse. Questa è la trama, ma ho dovuto fare un grosso sforzo perché il film in verità non ha trama. Allora andiamo ad ascoltare, Boris, prima di salutarci, un momento veramente che dà un po' il senso di quello che tu hai detto durante la conferenza stampa a Cannes, dove un giornalista americano ha chiesto a Lars von Trier di giustificarsi per questo film. Ascoltiamo proprio l'estratto in audio originale, perché è veramente molto molto incisivo. Ascoltiamo. That's Mammy Boy from the Daily Mail. Mr. von Trier, would you please, for my benefit, explain and justify why you made this movie, please? And please, you know, give more than a one-word answer. Thank you very much. Life is not easy, Lars. I don't think I have to justify. Yes, you do. Yes, I do. Yes, you do. This is the Cannes Film Festival, and you've brought your film here, and you have to explain why you made it. Please do so. Thank you. Ecco, Lars von Trier che ha scomodato, Boris, persino Tarkovsky, raccontando di questo film in conferenza stampa. Sentiamo Lars von Trier. Tarkovsky now, he's a real god. Per me Tarkovsky è un dio. La prima volta che ho visto Lo Specchio su un piccolo televisore sono andato in estasi. Per me è stata un'esperienza religiosa. Ho visto i suoi film molte volte. So che a lui non piacque per niente il mio primo film, ma va bene lo stesso. È di una generazione precedente, ma io mi sento in connessione con lui, così come con Bergman. Peraltro, anche Bergman disse di non sentirsi vicino a me. In questo modo, così, ho potuto dedicare il film a qualcuno di cui non si può dire che ho rubato qualcosa da lui. Nobody will say that you're stealing from him, so this was the easy way out. Allora, prima di lasciarti, Boris, velocemente, visto che siamo a poche ore dall'assegnazione della Palma d'Oro, chi vince secondo te e chi vince nel tuo cuore? Nel mio cuore è Looking for Eric. Eric Cantona, la storia di Ken Loach è stata divertentissima. Come critico dico Jacques Audiard, Un profeta, perché è il film più bello che è passato, con una piccola speranza che vincere di Marco Bellocchio, almeno Giovanna Mezzogiorno, possa portare a casa qualcosa. E potrebbe essere ben piazzata anche secondo i bookmaker, no? Che ne sanno sempre abbastanza. Quindi speriamo che vincere, che è un film veramente molto riuscito, a mio modo di vedere, abbia la possibilità di portare a casa qualcosa. Ne parleremo fra poco, quella rosa purpura di vincere. Per il momento salutiamo Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ciao, a presto. Di nuovo insieme alla Rosa Purpura continuiamo a parlare del 62esimo Festival di Cannes, a poche ore dall'assegnazione della Palma d'Oro prevista per domenica sera. Abbiamo parlato di Antichrist, il film che ha fatto molto discutere, di Lars von Trier. Ora affrontiamo l'altro film che, proveniente da Cannes, arriva subito nei nostri cinema, anzi c'è già arrivato da mercoledì scorso, è nelle nostre sale. Parliamo di Vincere, il film di Marco Bellocchio. Speriamo che sia un titolo di buon auspicio, anche perché il film di Bellocchio è l'unico italiano in concorso ed è stato molto apprezzato dalla critica internazionale, un po' meno, cioè un po' più freddamente accolto da quella nostrana. Ma dicevamo, gli stranieri lo hanno molto amato, Variety lo ha definito un'opera entusiasmante, una brillante messa in scena, la storia affascinante, ha detto il giornalista Jay Weisberg, ed è lo stile del film che toglie il respiro. E Screen International, dal canto suo, ha parlato di fuochi d'artificio d'autore e ha definito l'interpretazione di Giovanna Mezzogiorno incontenibile ed emozionante. Siamo abbastanza d'accordo qui alla Rosa Purpurea. Il film ci è piaciuto e ve lo raccontiamo così. No alla guerra tra popoli, viva la Repubblica, viva il socialismo! Viva il socialismo! I governi dei padroni stanno preparando la guerra! Noi vogliamo la pace e la giustizia! Pace e giustizia! Con le budella dell'ultimo papa, noi strangoleremo l'ultimo re! Era questo il Benito Mussolini del 1914, anticlericale e antimonarchico convinto. Chi l'avrebbe detto che di lì a pochi anni avrebbe conquistato Roma col beneplacito del re e avrebbe firmato i patti lateranensi col Papa, quando si dice la Realpolitik? Ma andiamo con ordine, torniamo a quel 1914, i fermenti rivoluzionari del Partito Socialista di Mussolini, che dirigeva il suo organo di stampa, l'Avanti, si fondevano con l'irruenza delle spinte moderniste del futurismo. La storia covava un embrione che si sarebbe chiamato fascismo da lì a poco, e Benito da Predappio se ne sentiva il duce predestinato. La stessa irruenza, negli stessi giorni, il giovane Mussolini la metteva nei rapporti con una donna, Ida Dalser, Bella, giovane, trentina e perciò definita l'austriaca, Ida aveva ritrovato Benito a Milano, dove si era recata per aprire un salone di bellezza. I destini dei due si erano già incrociati a Trento e Ida era rimasta folgorata dalla personalità di questo uomo forte. Ritrovarsi e amarsi appassionatamente fu tutt'uno, scena bollente nel film, e da quella relazione nacquero un matrimonio, presunto e mai documentato, e un bambino, che il duce prima riconobbe, si chiamava addirittura Benito Albino, salvo scaricarlo con la madre qualche anno dopo, falsificando l'anagrafe. Vincere racconta l'ostinata e coraggiosa battaglia di una donna per ottenere il riconoscimento del suo matrimonio e la paternità del suo bambino da parte dell'uomo più potente d'Italia, che nel frattempo, per ragioni personali e di Stato, aveva disconosciuto tutto del suo passato amoroso. Gli accordi col Vaticano si avvicinavano e il matrimonio, stavolta ufficiale con Rachele, rendeva sconveniente la pubblicità alla precedente relazione con Ida. Mussolini agì con cinismo, secondo il film e secondo questa ricostruzione, lasciando che Ida Dalser finisse i suoi giorni internata in un manicomio, separata dal piccolo Benito, che avrebbe fatto la stessa fine, e non rispondendo mai alle numerose, disperate lettere che la Dalser gli mandava dal centro dell'inferno. È un film sorprendente questo Vincere. Il rigore narrativo di Bellocchio, un regista freddo, certo non sentimentale, messo al servizio di un genere straripante come il melodramma. Il risultato è stilisticamente perfetto, struggente nelle emozioni, plumbeo nelle ricostruzioni, grazie anche alla fotografia firmata da Daniele Cipri, regista mattacchione in coppia con Maresco, che restituisce con la luce il clima di dramma incombente della storia. E poi Vincere racconta un concetto invariato nel tempo, la solitudine dell'uomo di potere, la sua convenienza a staccarsi dai residui ingombranti del passato per presentare la sua faccia pulita alla pubblica opinione. Del resto, fu proprio Mussolini a inventare la politica dell'immagine. Brava davvero Giovanna Mezzogiorno nel suo ruolo più convincente. Filippo Timi gioca sul doppio binario interpretativo del Mussolini giovane, meglio, e del Benito figlio ventenne, un po' sopra le righe. Qualche stop and go di troppo nella seconda parte, qualche ripartenza, non nuoce comunque alla tensione del film. Un continuum cui giova anche il perfetto utilizzo narrativo dei materiali d'epoca, come i discorsi del Duce e i cinegiornali. Il nostro Boris Sollazzo ha incontrato a Cannes Marco Bellocchio, il quale ricostruisce così obiettivi e caratteristiche del suo film. Si potrebbe definire in modo contraddittorio un melodramma futurista. D'altronde però Mussolini in fondo, quando si stacca dal socialismo, condivide una serie di ideali futuristi. Poi, una volta al potere, lui emargina il futurismo, cioè lo istituzionalizza e recupera l'opera lirica che in qualche modo aveva trascurato. Era lungi da me qualsiasi preventivo riferimento alla politica, per esempio, o italiana o in generale di oggi. Il discorso poi sulla elaborazione delle immagini, sul loro montaggio, pensiamo alla musica, pensiamo alla fotografia, pensiamo a varie voci, questo in me è stato molto obbligatorio, insomma, proprio per evitare qualsiasi ricostruzione tipo fiction, ecco, per capirci. Così invece il regista piacentino spiega il controverso rapporto fra Mussolini e il giovane Benito Albino. C'è una dimensione tragica che poi ho attinto, questo anche dai libri e dalle interviste su Benito Albino, che proprio diceva a scuola, anche se gli era proibito, sì, io sono il figlio di Benito Mussolini, però aveva verso Benito Mussolini, potremmo dire, un odio amore, ma tant'è vero che aveva addirittura progettato infantilmente di andare a Piazza Venezia e di sparargli, ecco, aveva questo tipo di reazioni. Abbiamo parlato di Vincere, il film di Marco Bellocchio, già nei cinema italiani da qualche giorno, in concorso a Cannes, in attesa che la giuria presieduta da Isabelle Huppert si esprima, speriamo regalando una soddisfazione al nostro cinema, appunto, sulla Croisette. Noi a questo punto cominciamo a giocare con il DVD game, perché torniamo alla formula classica dopo la puntata della scorsa settimana andata in onda dalla Fiera del Libro di Torino, quindi torniamo a farvi ascoltare tre tracce di uno stesso film che dovete indovinare per provare a vincere il DVD. Ascoltiamo la prima. 3 minuti, ci siamo, punto zero. Vuoi dire qualcosa? Per immortalare l'occasione. Con la canna di una pistola in bocca ti esprimi solo a vocali. Non riesco a pensare a niente. Per un istante dimentico completamente il piano di demolizione controllato da Tyler e mi domando se quella pistola è pulita. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per partecipare ed è anche l'indirizzo per continuare a scriverci il vostro rapporto con un film particolare. È una iniziativa che abbiamo lanciato durante la puntata della Fiera del Libro, Io in un film, ovvero qual è il film in cui vi siete maggiormente immedesimati nella vostra vita e perché, spiegatecelo in qualche riga. I vostri racconti più divertenti, più azzeccati, così verranno letti in onda durante il nostro programma. Più tardi lo faremo con quelli che ci sono arrivati e vi verrà inviato un film, un DVD tratto da un grande libro. Quindi insomma riusciamo a chiudere il cerchio su questo rapporto fra la letteratura e il cinema, che è stato un po' anche l'anima della nostra puntata passata. Ma torniamo a parlare invece del Festival di Cannes. Certo, cinema, lo abbiamo affrontato con il collegamento con Boris Sollazzo, vi abbiamo raccontato i due film che sono arrivati nelle nostre sale, ma anche, ovviamente, immancabilmente, glamour, paillette, lustrini, star, feste, anche di questo colore si tinge ovviamente la Croisette durante i 12 giorni del Festival di Cannes. E allora, per farci raccontare questo aspetto, noi ci colleghiamo con un'altra delle nostre inviate al Festival della Costa Azzurra, Barbara Righini. Ciao Barbara! Ciao Franco, un saluto ai nostri ascoltatori. Beh, direi che la crisi si è sentita anche qui a Cannes, lo si capisce da diversi indizi. Innanzitutto il tappeto rosso, non che non ci siano state star, ricordiamo Brad Pitt con Angelina Jolie, Dita Von Teese, poi una serie di star italiane come per esempio la Cardinale, però quello che si è notato è la mancanza di star ogni sera, cioè ci sono state delle serate veramente vuote. Per esempio la presentazione di Terry Gilliam del suo immaginario of Dr. Parnassus faceva presagire l'arrivo di Jude Law, Johnny Depp, Colin Farrell, nessuno di loro si è presentato, senza dimenticare il gala dell'Anfar, che quest'anno è stato sì ricco di star ma non come gli anni scorsi, un gala che ad esempio ha fatto portare a casa $130,000 per il sassofono di Bill Clinton, quando qualche anno fa nel 2007 con un bacio a George Clooney si incassarono $350,000. E poi si è visto per esempio un calo al mercato, c'è stato il meno 25% di iscrizioni, quindi con meno iscrizioni probabilmente meno compravendita anche di film. Barbara, grazie per averci raccontato insomma un po' l'anno della crisi vissuta sulla Croisette, ovvero il posto più lussuoso del mondo probabilmente in questo momento. Hai raccolto anche le voci di alcuni colleghi che ci hanno fatto i loro pronostici proprio per il palmarès che sta per essere annunciato. Abbiamo sentito prima le preferenze personali di Boris Sollazzo, adesso andiamo ad ascoltare invece, sempre in tema di Toto Palma, le voci dei colleghi raccolte da Barbara Righini. Erika Rosio, gioia, ma potrebbe andare a Un Prophète, film francese bellissimo di Audriard, che ha veramente una struttura di grande impatto e che è piaciuto tantissimo a tutti. Nicola Valcinella, Metro Italia. Lars von Trier, Anticristo, sicuramente la cosa più forte, più innovativa, più necessaria, più provocatoria del concorso. Maurizio Cabona, Il Giornale. Dalla fiaba di Ken Loach, che almeno mi ha divertito e non mi ha fatto addormentare, vale a dire Looking for Eric, a invece nel film serie da festival, quello di Haneke, Il Nastro Bianco. Giovanna Grassi, Corriere della Sera. Mi piacerebbe molto che vincesse il film di Jane Campion. Roberto Nepoti, La Repubblica. Una valutazione su chi penso possa vincere è particolarmente difficile, perché secondo me c'è una qualità piuttosto alta in generale. Mi sembra che sia molto cresciuta la rappresentativa francese e quindi potrei ipotizzare, ma insomma non ci scommetto assolutamente, tra Un Prophète e All'Origine qualche cosa. Prosegue La Rosa Purpurea e prosegue con i film, le novità di questa settimana al cinema. Siamo usciti da questa mezza trasmissione che abbiamo dedicato al Festival di Cannes, che si sta ormai chiudendo, ma ci sono altri film che trovano la via della sala in Italia, e tra l'altro ce n'è uno che potrebbe fare bene anche al botteghino, visto e considerato che è il sequel di un grande successo nel target family, ovvero Una notte al museo 2, La fuga, questo il titolo completo del nuovo film che vede protagonista Ben Stiller. Dopo aver animato e domato gli ospiti di cera e quelli imbalsamati del Museo di Storia Naturale di New York, Larry Daley, appunto il personaggio interpretato da Stiller, era diventato il guardiano notturno più famoso al mondo, così lo avevamo lasciato alla fine del primo film. Lo ritroviamo ora imprenditore di successo, impegnato in televendite che promuovono la sua ultima futile invenzione, una torcia fosforescente, mai più senza. Larry è ricco, ma non si diverte. Un giorno, però, tornando dal lavoro e attraversando Central Park, non resiste alla tentazione di fare capolino nel suo vecchio covo, il museo, appunto, e lì fa una scoperta allarmante. Tutti i reperti che, animandosi, gli avevano regalato la notte più magica della sua vita, sono imballati in grosse casse. Allora, aiutateci ad uscire da qui! Ciao, ragazzi. Come state? Ma bene, guarda chi c'è! Mister Pallone Gonfiato in persona, arrivato giusto in tempo per salutarci! Sistemerò tutto io. Ma se per una torcia fosforescente ci hai abbandonati, ci fai buttare in un deposito! Teddy Roosevelt, Robin Williams, il cowboy Jedediah, Owen Wilson, l'imperatore Ottavio, Steve Coogan, animali grandi e piccoli, tutti ridotti all'impotenza, pronti al trasferimento nei depositi dello Smithsonian Museum di Washington, perché c'è il nuovo che avanza e le tecnologie virtuali hanno soppiantato la cera e la paglia, come spiega l'antipatico direttore del museo, il dottor McPhee. Bla bla bla, storia, storia, studia, studia, così i bambini si divertono e imparano. Interessante. State aggiungendo nuovi personaggi interattivi? No, signor Daley, non si aggiunge niente. Sostituiamo i vecchi personaggi. Ci sbarazziamo di tutto questo ciarpame, veline, statue di cera, qualche animale più sgangherato come questa scimmietta spelacchiata. Stia attento, è una cappuccina. È una scimmia? Sì, ma è una razza non comune. Una cappuccina non è solo una scimmia. La tavola dei faraoni, che al calar del sole fa animare le statue del museo, dovrebbe rimanere a New York. Dovrebbe, sì, perché la scimmia cappuccina la ruba e la porta con sé. Per Larry Daley è giunto il momento di prendersi una vacanza dal suo ruolo di imbonitore televisivo. Parte anche lui alla volta della capitale. Giunti a Washington, il fattaccio si compie. Al tramonto, la tavola fa il suo mestiere e rianima gli ospiti dei 19 musei che fanno dello Smithsonian il più grande complesso espositivo del mondo. Tra i risvegliati, il ruolo del cattivo va al faraone Khammurra, che mette subito in piedi un'improbabile task force del male, assumendo Napoleone, Ivan il Terribile e Al Capone in bianco e nero. Meno male che in aiuto di Larry accorre la pioniera del volo al femminile, Amelia Earhart, quella imbalsamata ovviamente, che però da viva è energica, tosta e tanto tanto innamorata di Larry. Presidente, se lei esce di qui la gente morirà di paura. Lasciate che vi racconti della mia ultima notte a teatro il 14 aprile. Signor Presidente, ora lei deve stare fermo immobile. Come? Abramo, si blocchi. Bloccarmi? Io? Grazie. Voi due siete una splendida coppia. Oh no, noi non siamo una. No, non siamo una. Insomma, noi siamo. Non siamo una, insomma, non siamo una. Bla bla bla bla. Io non mento mai. Le situazioni sono più o meno le solite: inseguimenti, duelli, gag, un pizzico d'amore. Ma inevitabilmente manca lo stupore che caratterizzava il primo film, quell'idea originale, e le situazioni rischiano di essere ripetitive. Perde profondità anche il personaggio di Larry, senza quel background di padre disoccupato e divorziato da film di Frank Capra, capace di regalare al figlioletto una notte di magia. Lo stesso Ben Stiller trova proprio in questo aspetto la principale differenza per il suo personaggio fra il primo e il secondo episodio. Sentiamo. For me it was different just because Beh, per me è stato anzitutto differente perché avendolo già vissuto nel primo film, il mio personaggio non doveva essere sempre stupito di fronte alle cose che prendevano vita. È stata quindi un'esperienza completamente diversa, ho potuto approfondire aspetti come il rapporto con gli altri, permettermi un approccio completamente diverso. È stato divertente rapportarmi a queste creature che prendevano vita come fossero amici. Questa volta poi c'era anche un vero cattivo. Nel complesso credo insomma sia decisamente migliore del primo. Questo era Una notte al museo 2, La fuga, nei cinema italiani da questo fine settimana. Noi a questo punto apriamo un'altra parentesi dedicata al DVD game facendovi ascoltare la seconda traccia del film misterioso di questa settimana. Vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico non essere mai completo, io dico smettila di essere perfetto. Io dico dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Rosa Purpurea, @radio24.it, è come sempre l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere il DVD di questo film. E restando in tema DVD, la settimana scorsa dalla Fiera del Libro di Torino abbiamo lanciato un'iniziativa che era Io in un film, ovvero abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori per qualche settimana di raccontarci in quale film si sono immedesimati almeno una volta nella vita e perché, raccontarci il perché con qualche riga scritta, e noi cercheremo di leggerne almeno un paio alla settimana e di regalare a questi ascoltatori DVD di film tratti da capolavori della letteratura. Cominciamo proprio a dare conto in breve della lettura delle prime mail che ci sono arrivate, quella di Rossella di Casoria, provincia di Napoli, che dice di essersi immedesimata nelle Cronache di Narnia perché quando era piccola in una casa di una anziana vicina c'era un sotterraneo, una porticina che conduceva a un sotterraneo, e in questo sotterraneo in lontananza si sentivano i rumori dell'acqua, si intravedeva un altro stanzone simile a questo lì vicino, e dice Rossella: ho tanto fantasticato su quella visita, immaginavo un luogo con ampi spazi verdi, popolato da strane creature, tutte buone e disponibili a giocare con noi. Conclude Rossella: le Cronache di Narnia hanno certamente dato consistenza alle mie fantasie di bambina. E davvero è così. Rossella ha scelto il film Grandi Speranze di David Lean, offerto dalla Password. Giuliano di Ciampino invece dice di essersi medesimato più di una volta in Café Express di Nanni Loi, un film del 1980, perché dice: ho lavorato per 5 anni in diverse città del nord Italia e quasi ogni fine settimana tornavo a Napoli in famiglia e ho visto di tutto sul treno. Sono situazioni che mi facevano ricordare appunto quel treno che da Vallo della Lucania portava nella notte viaggiatori a Napoli, appunto nel film con Nino Manfredi nei panni di un venditore di caffè. Dice Giuliano: venditori ambulanti di tutti i tipi e appunto questo venditore di caffè che serviva soprattutto a fermarsi un attimo, passare pochi minuti in compagnia di qualcuno che potesse condividere le proprie storie. Ora, conclude Giuliano, è da qualche anno che mi capita di viaggiare solo tra Napoli e Roma, ma le cose raccontate in quel film sono ancora tremendamente attuali. E allora chiediamo a Giuliano di dirci che film vuole ricevere per questa sua collaborazione a questo nostro appuntamento, che durerà appunto qualche settimana, Io in un film. Io ricordo invece a tutti quelli che ci ascoltano di scrivere alla Rosa Purpurea @radio24.it in che film vi siete immedesimati e perché. E allora diamo un'occhiata ora a come sono andate le cose al botteghino 7 giorni fa. Non era certo un quesito difficile da azzeccare, perché nei cinema già da mercoledì scorso arrivava un colossal come Angeli e Demoni. Certo che l'entità di questo successo è davvero notevole, anche forse più del valore effettivo del film. Primo posto quindi in classifica per Angeli e Demoni, ma ci racconta tutto nella Screen Parade la nostra Daniela Faggion. Faccio al botteghino con un Angeli e Demoni da record. Scende dal terzo al quinto posto X-Men Le Origini, che nel weekend scorso ha incassato altri 314.000 euro, arrivando a 4.630.000. Due posizioni meno anche per Star Trek Il Futuro, che con altri 384.000 euro supera il 1.650.000. Non volevo crederci quando il barista mi ha detto chi eri. Debutta con la medaglia di bronzo al petto 17 Again, Ritorno al liceo, 600.000 euro per Zac Efron e Matthew Perry. Quando sei giovane ogni cosa ti sembra la fine del mondo, ma non è così, è soltanto l'inizio. Perde la vetta ma conserva una buona fetta di pubblico San Valentino di Sangue, incassa un altro 1.100.000 e sfiora i 4 milioni complessivi. Stacca nettamente il gruppone e si lancia in fuga sin dal debutto invece Angeli e Demoni, oltre 5.500.000 nel fine settimana e 7.300.000 contando l'uscita di mercoledì senza Santi in Paradiso. Il camerlengo è in pericolo. E come avete sentito, al terzo posto in classifica c'è un film generazionale destinato a un pubblico soprattutto femminile e soprattutto di teenager. Parliamo di 17 Again, il film che riporta sugli schermi italiani un protagonista come Zac Efron, apprezzatissimo dalle ragazzine, soprattutto per il suo ruolo nella trilogia di High School Musical, ma anche per una ottima partecipazione al musical Hairspray. Ne parliamo questa settimana, è un film che è uscito la settimana scorsa appunto, ma vi avevamo detto durante la trasmissione in diretta dalla Fiera del Libro di Torino non c'era stato tutto il materiale che avevamo preparato, e allora l'approfondimento su 17 Again, terzo in classifica nei cinema italiani, a cura di Annalisa Misceo. Mike, capisco che sei giù, ma non è una cosa negativa che Scarlett ti abbia cacciato di casa. Ehi! E che i tuoi figli non ne vogliano sapere di te. Se a 40 anni si arriva a fare un bilancio così disastroso della propria vita, non ci sono molte soluzioni. L'ideale sarebbe tornare indietro nel tempo e rifare tutto da capo. È quello che vorrebbe lo scontento e frustrato Mike O'Donnell, ex potenziale campione di basket frenato a soli 17 anni da un figlio arrivato per sbaglio a un matrimonio riparatore. Ma certo che voglio vivere nel passato. Era molto meglio. Scommetto che vorresti rifare tutto da capo, vero? Ha vinto la scommessa. Ne sei proprio sicuro? Oh, sì. Mike lo confessa a uno strano bidello del suo vecchio liceo e il suo desiderio si realizza. La vuoi piantare di fissarmi? È che mi fa impressione. A me lo dici? Sono tornato adolescente! Mike si ritrova così, di nuovo 17enne, convinto di avere una seconda possibilità nel basket. Frequentando la scuola, però, scoprirà che non è nello sport che dovrà ripercorrere il suo cammino, ma con i figli, con i quali finalmente troverà un dialogo. Allora, che hai imparato oggi a scuola? Che sono un pessimo padre. Ti l'ho detto che il liceo non c'entrava niente. No, il liceo c'entra. È solo che non si tratta del basket. Si tratta di aiutare Alex e Maggie. Senza grande originalità, Seventeen Again, ritorno al liceo, si inserisce nella scia dei teenager movie che fanno fare ai loro protagonisti salti temporali da cui imparare il vero senso della vita. Coscienti di questo, una volta in sala però si assiste a una pellicola godibile e a tratti davvero esilarante, che gioca soprattutto sul contrasto tra l'aspetto da 17enne cool del protagonista e le sue prediche da padre preoccupato. Più che la trama, però, ad attrarre il pubblico sarà Zac Efron, che pur non tradendo le sue radici Disney, dimostra di essere cresciuto e di non essere più soltanto il bel faccino, idolo delle ragazzine. Cominciamo la quarta e conclusiva parte della Rosa Purpurea con Trailer USA, la nostra rubrica che settimanalmente vi porta in casa le novità del cinema americano nelle sale americane attraverso i suoni originali dei trailer. È il nostro appuntamento che ci fa ritrovare Micaela Bellisario, che saluto. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora Micaela, oggi parliamo di un film d'azione, anzi di un thriller, di quelli che tengono proprio con il fiato sospeso, in uscita quest'estate negli Stati Uniti, a settembre. Atteso in Italia come uno dei primi film forti della nuova stagione cinematografica. In originale si intitola The Taking of Pelham. In Italia dovrebbe uscire col titolo di Pelham 1-2-3, un ostaggio al minuto. È anche in questo caso un remake di un film del 74, benedetti anni 70, con Walter Matthau, era Il colpo della metropolitana. Questa volta protagonisti invece sono Denzel Washington e appunto, come abbiamo detto, il cattivissimo John Travolta. La regia è di Tony Scott. La trama la lasciamo a te, Micaela. Sì, Franco, il titolo è la chiave del film. Pelham 1-2-3 è praticamente una fermata della metropolitana di New York, dove un giorno un sequestratore, interpretato da John Travolta, decide di prendere in ostaggio un intero convoglio di passeggeri in cambio, ovviamente, di soldi. Inizia una lunga trattativa che fa da spina dorsale a tutto il film. Nel passo che sentirete adesso c'è il primo contatto tra John Travolta e Denzel Washington, che è il capo della sicurezza della metropolitana. Why'd you stop 1-2-3? You're all green ahead. Rail control center, do you read me? Who is this? This is a man who's gonna give the city a run for the money. Now what is the price for New York City hostages this morning? What do you think, a million a piece is too high? Oh, I'm not a hostage negotiator, I'm a civil service employee. Oh, I think you'll do just fine. Il sindaco di New York, interpretato da James Gandolfini, sotto forte pressione, alla fine acconsente di dare al dirottatore, a John Travolta, i soldi richiesti per liberare gli ostaggi. Ovviamente si susseguono colpi di scena a non finire, davvero, davvero molto adrenalinici. E adesso sentirete un passo in cui una volante della polizia incaricata di portare il riscatto John Travolta viene coinvolta in un incidente e la trattativa viene ritardata con il pericolo che il sequestratore uccida degli ostaggi. The money's on the way. Look out! There was an accident. Now somebody else has to die. Those cops are gonna be down that tunnel. Got an easy shot, please advise. Let him unload on me! I want to make you a deal. I will trade you for all these passengers. Ricordiamo, Micaela, che peraltro non si tratta del primo remake di questo film, perché Il colpo della metropolitana ebbe anche una trasposizione televisiva nel 1988, così per la cronaca. E allora, Micaela, grazie di averci raccontato The Taking of Pelham e appuntamento fra 7 giorni. Ciao Franco, alla prossima settimana e naturalmente un saluto ai nostri ascoltatori. Ed entriamo nel magico mondo del DVD, come sempre in questa zona della nostra trasmissione, cominciando con l'ascoltare l'ultima e definitiva traccia del film misterioso di questa settimana. Forza, personaggio storico? Mi batterei con Gandhi. Ottima risposta. Sentiamo, tu? Lincoln. Lincoln? Alto, braccia lunghe, i magri si battono fino a spappolarsi. Avete indovinato? La rosa purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere questo film. Vi ricordo che è anche l'indirizzo di posta elettronica per raccontarci in quale film vi siete immedesimati nella vostra vita in assoluto, raccontarcelo in qualche riga, magari anche ben scritta, e cercheremo di dare lettura ad alcune delle mail che ci arriveranno, premiandole appunto con un DVD di un film tratto da un grande capolavoro della letteratura. Andiamo avanti sempre con i DVD, perché dobbiamo svelare ancora il quesito di due settimane fa. Non ce l'abbiamo fatta settimana scorsa da Torino, ci riproviamo adesso. Allora ascoltiamo quale clip vi avevamo proposto 15 giorni fa qui alla Rosa Purpurea. Facciamo i turni, i ragazzi finiranno tra un paio d'ore, perciò il turno più sicuro è prima dell'alba e quello lo faranno il piccolo soprano e la sua orchestra. Ritengo che non sia assolutamente opportuno far lavorare un bambino dell'età di Nalla in questo modo. Io sono più che disposta a coprire il suo turno. Senta, stia calma, per favore. Il bambino deve fare la sua parte. Alla sua età io lavoravo nei ranch più isolati. Non tutti sono lei, signor Drover. Io sono il capo. Si trattava di Australia, il colossal di Baz Luhrmann, con un cast tutto australiano, oltre al regista e all'ambientazione del titolo, ovvero i due protagonisti Hugh Jackman e Nicole Kidman, hanno indovinato e hanno vinto il DVD, lo splendido DVD, Antonella Jacoponi di Cascina, provincia di Pisa, e Simonetta De Feo, quindi due donne, sarà che è un film di grande romanticismo, dicevo, Simonetta De Feo di Passirana di Ro, provincia di Milano. E allora noi sentiamo sull'analisi tecnica del DVD Australia il nostro Claudio Pofi. Il film di Baz Luhrmann arriva in DVD con un'eccellente qualità, nonostante la durata molto lunga dell'opera, si parla di 167 minuti, all'interno dei quali seguiamo Lady Sarah Ashley, il personaggio interpretato da Nicole Kidman, che raggiunge l'Australia per ricongiungersi al marito, che al suo arrivo scoprirà essere stato assassinato in circostanze misteriose. Lo aiuterà il rude mandriano Drover. Segnalo, per quanto riguarda la traccia audio, la disponibilità di un'ottima colonna sonora Dolby Digital multicanale, sia in italiano che in inglese, e in quanto la durata del film è molto lunga, nella versione DVD sono presenti unicamente due scene tagliate, cosa che cambia invece notevolmente nella versione Blu-ray alta definizione, dove sono presenti un dietro le quinte e un approfondimento sull'Australia, la gente, la storia, i luoghi che hanno portato Baz Luhrmann a raccontare nuovamente del suo paese natio. C'è spazio ancora per una recensione qui alla Rosa Purpura per parlare di un altro DVD, figlio anche lui di un successo editoriale, come Il passato è una terra straniera di Gianrico Carofiglio, diventato un film lo scorso anno grazie alla regia di Daniele Vicari. Ascoltiamo brevemente un passaggio di un dialogo del film. Cioè, tu mi stai dicendo praticamente che l'altra volta mi hai portato da persone sconosciute a rubare dei soldi, perché di fatto è quello che abbiamo fatto, senza dirmi un cazzo? No, prima aspetta, io volevo dirtelo quella sera. No, tu dovevi dirmelo quella sera. Questo è un reato, Francesco. Ah, questa sì, è una truffa, perché sì, tu l'altra sera invece non hai commesso un reato. Cosa? Hai spaccato la faccia a quello ma là. Ma allora, innanzitutto, quella si tratta di legittima difesa. No, in un domicilio privato. No, tu l'hai fatto perché per te era giusto farlo, tutto qua, così come per me è giusto derubare i ladri. Distribuisce 01 Il passato è una terra straniera, il film di Daniele Vicari con Elio Germano e Michele Riondino. La storia di questo studente di legge che, non più esemplare, si tuffa nel mondo del poker, diventa un baro professionista, fa un'amicizia che lo porterà piuttosto fuori strada. Il film arriva in DVD con un'eccellente qualità per l'audio, un'ottima colonna sonora in Dolby Digital multicanale. Si può approfondire la realizzazione dell'opera grazie a un interessante making of, un incontro con il realizzatore del soggetto dell'opera, Gianrico Carofiglio, un'intervista al regista, intervista agli attori, e sono presenti, oltre che al trailer, anche le scene tagliate. E per quanto riguarda Il passato è una terra straniera, abbiamo un contributo in più da presentarvi, da proporvi, quello dell'intervista al regista Daniele Vicari, appunto, che abbiamo sentito proprio in occasione dell'uscita di questo DVD distribuito da 01. Un regista fra i più interessanti, fra i più autentici e innovativi del nuovo cinema italiano, Daniele Vicari, che racconta così che cosa rappresenti questa nuova vita in DVD del suo film. Secondo me il DVD oggi è abbastanza sottoutilizzato per le potenzialità che ha. Il DVD è una sorta di hard disk dentro il quale si potrebbero mettere molte più cose di quelle che ci mettiamo per motivi puramente produttivi. Tant'è che io per il mio prossimo film sto proprio progettando un DVD che con il film ha a che fare solo in una certa misura. Diventa proprio un'altra cosa, no? Però al momento per i film, diciamo, che escono al cinema e che hanno una distribuzione normale, ordinaria, il DVD non è molto di più di quello che è il film, purtroppo, ancora. Era Daniele Vicari, l'ultimo ospite della puntata di questa settimana della Rosa Purpurea. Ringrazio tutti per averci seguito. L'appuntamento va alla prossima settimana, il sabato alle 18 e la domenica alle 9 del mattino, come sempre, per raccontarvi tutto il cinema che c'è. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.